io ti guarderò, illuminata con il neon delle vetrine. Poi ti nutrirò di Coca-Cola e di popcorn dentro ad un cine. Ti racconterò le mie bugie sul mondo e quelle sulla gente. Poi ti bacerò con tutto quanto in fiamme, con le luci spente. E faremo l'amore sulle foglie e sui prati, sul denaro e nel fuoco, dentro ai posti proibiti, fino al cuore del mondo, come due innamorati, come due innamorati. Senza niente da fare, che non hanno nient'altro che una storia d'amore. Io ti curerò perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiati e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato. E faremo l'amore dentro ad un temporale, tra le luci del centro, tra le statue di sale, con il cuore impazzito, come due innamorati, come due innamorati. Senza niente da fare, che non hanno nient'altro che una storia d'amore. Una storia d'amore. Una storia d'amore. Una storia d'amore. Una storia d'amore. Una storia d'amore.